In Bologna quest'anno, nello specifico, perché negli anni passati questa situazione non si era mai verificata, non così forte, insomma, ci sono delle famiglie che hanno scelto anche una giusta ragione, nel senso che ognuno di loro può scegliere liberamente, chiaramente, il percorso scolastico dei propri figli, e hanno scelto di spostarsi dalla scuola di quartiere, la scuola di prossimità, ad altri istituti comprensivi, perché insomma, diciamo, le motivazioni sono fondamentalmente che le scuole non di quartiere sembrano un pochettino più sicure rispetto a quelle di quartiere. Poi le motivazioni personali non le andiamo a vedere, ma purtroppo sono tante, e la scuola non c'entra quasi mai in queste motivazioni. Allora, il problema si è verificato già in fase di iscrizioni, quindi nel mese di gennaio, alcuni istituti comprensivi, non solo il 5, ma altri istituti comprensivi della città, hanno verificato questo calo dell'utenza per il prossimo anno scolastico, e quindi il rischio di perdere delle classi nelle scuole di quartiere. Parliamo fondamentalmente di scuola secondaria di primo grado, quindi delle scuole medie, ma anche alla scuola primaria in alcuni istituti comprensivi ci sono stati forti cali e questa migrazione scolastica che, insomma, fa pensare, più che altro perché a gennaio i presidenti dei consigli di istituto di alcuni istituti hanno scritto e hanno avuto risposta dalle istituzioni, ma non una risposta chiara dall'ufficio scolastico provinciale. Poi, una volta chiuse le iscrizioni, si è verificato appunto quello che ci si aspettava, e cioè, per esempio, la scuola che sono più avanti, che è la nostra scuola media, ci sarà una classe in meno il prossimo anno, proprio per questa situazione che si è andata a creare. Quello che noi stiamo chiedendo adesso, anche attraverso una petizione che è su change.org ed è Sosteniamo la scuola pubblica della Bolognina, stiamo chiedendo firme, raccogliendo firme, perché vogliamo che rimanga l'organico che è attualmente in essere nella nostra scuola. Quindi non ci devono togliere professori, questo è quello che noi chiediamo, che chiede tutto l'istituto, anche ovviamente insieme ai professori, quindi non solo i genitori, stanno sostenendo questa petizione e stanno richiedendo questa cosa veramente importante, ma anche i professori, anche la scuola, la preside, perché ci rendiamo conto che la scuola e sostenere la scuola di prossimità significa inclusione, significa pari opportunità per tutte e tutti, significa coesione sociale e supportare il quartiere, che è un quartiere sicuramente complicato da alcuni punti di vista, ma veramente molto vario, colorato e meraviglioso da tanti altri punti di vista. Chi conosce la Bolognina lo sa, chi non la conosce e si spaventa per alcune cose che si leggono sui giornali o che si sentono raccontare, forse non si è fatto il calcolo che questa situazione all'età dei ragazzi delle scuole medie si verifica in tutti i quartieri della città, ma anche a livello nazionale. Quindi noi conosciamo persone a Milano, a Roma, a Palermo, e la situazione è esattamente la stessa. Quindi non è che nei quartieri diversi venga in un qualche modo attutita questa situazione, è una questione generazionale, è una questione di età, è una questione che si verifica dappertutto. Quindi scappare dalla scuola di quartiere per diciamo così paure di questo tipo, cioè della sicurezza, secondo noi non è una soluzione, ma soprattutto va a perdere e a togliere pari opportunità per tutte e tutti, perché poi chi rimane si ritrova senza organico, senza i suoi professori, e l'anno prossimo c'è il rischio che vengano tolti i professori dalle sessioni più avanti per essere assegnati ad altri istituti, e quindi i nostri ragazzi rimangono scoperti. Invece così non viene garantita una continuità didattica, non viene garantita una qualità dell'offerta formativa e educativa. Quindi è veramente importante che lascino lo stesso organico che le sessioni seravanti hanno attualmente. Questo è quello che noi chiediamo attraverso questa petizione, questa raccolta firme.